Attenzione Gianluca, Gianluca canale 10. Attenzione Gianluca, ci ascolti. Hola, hola, hola, hola Gianluca. Sì. Attenzione Luca, Luca, flipper, ci ascolti. Ora, prova 1, 2, 3, 4, ora, prova, prova radio 1, 2, 3, ora 1, 2, 3, ora 1, 2, 3, cambio, ora, prova, prova, ora, ora, prova 1, 2, 3, 4, prova 1, 2, 3, ora 1, 2, 3, 1, 2, 3, prova radio, ora 1, 2, 3, ora. Prova, prova, prova, prova, prova, cambio, cambio, ora 1, 2, 3, ora 1, 2, 3, prova radio 1, 2, 3, 1, 3, 1, 1, prova 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 1, 2, 3, prova 1, 2, 3, 1, 2, 3. Ciao Giovanni, buongiorno. Sì, cazzo, boh. Oggi sta a tippare, dov'è il turnino? Ero fuori Giovanni, ero fuori, cambio. No, sto provando, questa è la 68, se sta andando bene. Sì, sta andando. La radio è buona, Sta andando bene. E allora la lascio così, dai. Adesso l'ha abbassata un po' la radio, sennò è troppo forte. Sì, dai. Va bene. Cosa stai combinando di bello? Sì, io già sto con me, non sai quello che combino io. Sposato, ogni tanto diretto, ogni tanto una chiacchieratina e andendo. Cava, già andavo, dai. Sì, ok. Babbo, ci sentiamo, va. Ciao, fra. Ciao, Giovanni, saluta in casa, dai. Ciao. Thank you.